Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Come cazzo fate ad essere depressi il lunedì? Io sono depresso il venerdì perché ho due giorni davanti senza zanzara. Giuseppe, tu sei la mia ragione di vita ormai. È la verità. Famiglia male, fidanzate male. Cazzo devo fare? C'è solo la zanzara. Parenzo, abbiamo coniato un nuovo slogan. Lo slogan di Radio 24, senti, lo ha coniato un ascoltatore. Sai che c'è questo nuovo slogan, no? Libera sì. La voglia di fare. Ottimo. Che ottimo. Non significa nulla oggettivamente. Significa libera la voglia di fare, cioè esprimiti, niente. Significa dai il massimo di te, significa allora, vabbè, una banalità, molte cose. Insomma, libera molte la voglia cose, di fare sembra cose. Tipo una cosa, sembra no, sembra libera la voglia di fare, cioè libera le energie, libera la voglia di fare, di realizzare, di costruire un futuro. Sembra il Brico Center. Brico Center. Ma che bello. Però senti un ascoltatore che ha detto, questo è meglio. Mi sa che è più incisiva questa dell'ascoltatore. Radio 24, libera la voglia di trombare. Questo mi pare non congruo rispetto agli obiettivi che ci siamo dati nel piano editoriale, però. Si scherza ragazzi, non rompete i coglioni, parlo ai capi. Allora ragazzi, la signora che abbiamo intervistato ieri, la signora nazi vegana, ha raggiunto diciamo il picco che può raggiungere il mondo del veganesimo spinto. Non credo che sia possibile fare oltre, no Parenzo? Cioè davvero non credo sia possibile fare oltre. Questa signora che di cognome fa montagna, ma dovrebbe scalare una montagna. No way. Esatto, una montagna di, non so, dovrebbe scalare per tornare sulla terra, per tornare alla civiltà, deve scalare una montagna, ecco. Altro che montagna di cognome. Questa qua praticamente sostiene, come sapete già, come abbiamo spiegato ieri, che chi un bambino che mangia la carne, perché questo voleva dire, un bambino che mangia la carne è uno che deve morire di cancro, perché contribuisce da mangiatore di carne a un grande genocidio. Resta il fatto che lei ha scritto "speriamo crepi di cancro da giovane" con la foto di un ragazzo, di un bambino che mangiava una bistecca di carne, ed è una cosa che però non ho pubblicato io. Lei non l'ha pubblicata, però l'ha commentata, ha scritto quella frase là, ed è una frase agghiacciante, perché quel bambino deve vivere, quel bambino deve vivere, quel bambino deve, cosa deve diventare? Se deve diventare come tanti, non è una grande perdita se non lo diventa. Questo è buono, se deve diventare come tanti non è una grande perdita se non lo diventa. Questo è molto buono, molto buono. Ora, c'è tanta gente che lavora serenamente nelle aziende di macellazione, c'è tanta gente che nelle aziende che trattano la carne, non sono dei criminali, non partecipano al grande saccheggio del mondo, non partecipano, come ha detto questa signora, al genocidio peggio di quello degli ebrei o peggio di quelli staliniani. No, sono dei lavoratori, operai, mi metto dalla parte di Parenzo questa volta, cioè della gente che lavora normalmente, che fa un mestiere, magari lo schifa questo mestiere, non lo so, non mi interessa, non è che hanno fatto un sondaggio tra chi lavora nei macelli o chi lavora nelle grandi aziende che producono la carne, non l'hanno fatto questo sondaggio, ma non mi interessa, probabilmente se questo lavoro facesse così schifo non lo farebbero. Questi qua meritano di crepare. Chi maltratta gli animali merita di crepare. Chi lavora nei macelli merita di essere buttato dalla finestra. Quelli che lavorano nel macello e che vanno uccisi. Buttano le gambe che si spaccano, le buttano le vacche che si spaccano le gambe. Vanno uccisi. Almeno fatti le stesse cose, ecco, buttati dalla finestra che si spacchino le gambe, così capiscono. Ragazzi, io voglio riproporvi questa cosa, piccoli pezzetti, mamma, caro Parenzo, semplicemente per far vedere l'orrore dove può arrivare anche uno che accarezza un animale, come questa signora accarezza un animale. Può diventare un essere spregevole, perché di questo si tratta. Non riesco a trovare, sai, c'è molta gente che chiama qui alla Zanzara, penso che tu definisci spregevole, no? Sì, credo quasi l'80%, no, poi c'è un 20% di gente ragionevole. Quelli che chiamano, perché quelli che ascoltano sono persone anche molto molto per bene, molto normali, colte, dal barista Hitler, al camionista, una che ascolta, una che persona dice per Hitler me. Per tanti aspetti non era male, perché amava i cani. Senti, secondo lei chi mangia la carne che cos'è? È un problema suo. È un assassino chi mangia la carne? Io il mio, certo, no. Sì, anche un assassino, sì. Cioè complice di una strage, sì. Complice, certo, di una strage. Sì. Cioè dunque chi continua a mangiare carne? Ma io scrivo tutti i giorni, non è che è una novità. Uno può dire anche che Hitler ha fatto benissimo nella sua vita, per carità, ma va bene. Ma cioè, probabilmente per tante cose in effetti non era male. Non era, per esempio, era vegetariano? Non lo so, non ho mai mangiato con Hitler. Non Hitler, però amava i suoi cani. Però amava i suoi cani. Dunque non era male, sì, per tanti amava aspetti. I cani, no, però amava, diciamo, cani. Che ha ucciso 6 milioni di persone pur amando ma i cani. Oh, beh, sì. Quanti animali, sì, stanno morendo ogni giorno? Allora ragazzi, ieri sera durante la trasmissione di Piazza Pulita, Parenzo, ho sentito una signora che si chiama Elena. La nonnina fascista, nonnina fascista. Fascista, perché fascista? Sempre le tue solite definizioni denigratorie. Beh, basta ascoltare quello che ha detto, come è normale quello che ha detto. I negri inferiori, normale. Non lo so. No, come lo definiresti? Aspetta, non è razzismo, devo sentire bene, fammi sentire bene. Allora, analisi Elena, testuale. Meglio essere definiti incivili, meglio essere definiti incivili che avere le scimmie. Beh, effettivamente le chiama scimmie, credo, fammi sentire che non l'ho ancora sentito bene. Alfano, lui c'ha tutti gli appartamenti di lusso e dice, poveretti, siete degli incivili, ma che li prenda lui, è meglio incivili che avere le scimmie. Meglio incivili che avere... Però devo dirti la verità, sì, è un po' razzista la signora. Un po'. No, è razzista, è razzista. Però almeno ha il coraggio di dire quello che pensa. No, perché molte persone... Hanno tutti il coraggio di dire ste porcherie ormai. No, è tutto sdoganato. Alcuni dicono... Voi siete mainstream ormai, chi sostiene sta roba. Sono d'accordo con questo. No, ma dire che è normale. No, non sto dicendo che è normale. Infatti purtroppo è normale. Normale che chiamino quale persone, che le dicono... La gente si dovrebbe vergognare di queste robe. Non hai capito. Ho detto, rispetto a quelli che quando chiedi ti dicono no, ma non è questione ma di sono neri. In pochi ormai, no, ma a dire, quando mai a tirarsi indietro, ma quando purtroppo mai ti dicono non ci hanno comunicato che questi qua dovevano arrivare, si devono organizzare meglio mandare di qui, meglio mandare di là. La realtà è che molti pensano esattamente come Elena, senti, Mandela è un terrorista che ammazzava i bianchi, senti. Il Sudafrica era un bellissimo paese quando era in mano ai bianchi, al sistema inglese, e quando nel 92 è salito, gli hanno dato il potere a Mandela, che detto tra noi, Mandela era un giovane terrorista che ammazzava i bianchi prima. Questa tra l'altro è pure una che ha una certa cultura, cioè non è proprio sprovveduta, c'è proprio la classica razzista convinta di quella. No, ma veramente, cioè, Mandela è terrorista che ammazzava i bianchi, è vero che ammazzava i bianchi, ma insomma in quel contesto lì, cioè... Senti, i neri hanno un quoziente di intelligenza basso. Ma secondo lei è stato giusto dare i diritti ai neri in Sudafrica o no? Noi pensavamo di no, ma non so. Cioè, c'è un pericolo che questo diventi un po' il nuovo Sudafrica? L'Italia? Il pericolo è che non sappiamo se a un momento loro si girano contro di noi e vogliono essere governare. Poi il loro IQ è basso. C'è il quoziente di intelligenza? Cioè sono meno intelligenti dei bianchi? Sì, molto meno. Sì, sì, sì, molto, molto, molto il quoziente di intelligenza più basso. Questa è di Goro, lei. Questa Elena è di Goro, questa Gorino, Gorino mi dicono, Gorino, Gorino. Tutto il giorno viaggiare con Cruciani alla radio da ascoltare, anche se col traffico mi sento male, ho Parenzo da mandare a cagare. Tutto il giorno viaggiare. La Zanzara. Allora, secondo alcune persone, non è concepibile che gli abitanti di un posto, in questo caso gli abitanti di Gorino, Parenzo, abbiano agito semplicemente perché sono convinti e non vogliono i neri in mezzo ai coglioni, perché di questo si tratta. Io l'ho sempre detto che è così, eh? Cioè non è che ho detto le informazioni, le cose, eccetera. E pensano invece che quando si muovono le persone perché magari egoisticamente, secondo me ha ragione, vogliono impedire l'arrivo di 20 persone, 30, 40, che poi magari nel tempo diventerebbero 100, eccetera, eccetera, siano indottrinati, indottrinati, capito? La Boldrini. Chi protesta a Goro è indottrinato. Ma magari chi cazzo qualcuno soffia, qualcuno soffia sul fuoco. Ma chi te l'ha detto? Cioè, c'è un clima generale. Ma non ho capito perché è indottrinato. Per cui, ma perché sono indottrinati dalla propaganda politica di chi va raccontando balle, ma tipo guarda, che gli viene dato l'albergo, il telefonino, la carne. Beh, il l'albergo primo, gli viene il secondo, dato sicuro il telefonino, pure. Gli vengono dati anche i fazzolettini di carta per pulirsi la bocca. Gli viene data l'acqua per farsi la doccia, dati, cioè, dai ragazzi, ma, e viene fatta una propaganda sentiamo vergognosa che neanche la negli anni 30 alle sentiamo volte. La ma penso che chi protestava in quel modo è sicuramente una persona che è stata indottrinata, è vittima della paura, essa stessa, quel cittadino che gridava è uno che pensa che chi c'ha davanti perché è diverso. Indottrinato, capito? Cioè non è che uno è autonomo nel cervello, è indottrinato, capito? Beh, anche qualcuno ma dai, è autonomo, ma e questo è una ancora cosa, più pericoloso. È uno snobismo, una proprio quando ti sta bene il popolo che si che va in piazza, che si ribella, allora no, quelli sono consapevoli. Invece quello che ti sta sui coglioni perché protesta con l'arrivo degli immigrati è indottrinato. Cioè la Boldrini proprio non ne dice una giusta, ne dicesse una giusta, dice tutte cose sbagliate. È pazzesca come cosa, pazzesca. Poi che tristezza, pure Formigli, il presidente, la presidente, una tristezza. Vabbè, guarda, è una questione ti verrebbe di educazione. Da mandare a fare in culo tutti, il presidente, la è una questione di educazione. Ma che educazione, il presidente chiamarlo della Camera, presidente della Camera, ma se uno ti dice mi chiami la presidente, no, non ti costa nulla chiamare la presidente. Io voglio chiamarti allora, presidente. Non la avrai mai. E allora, chi se ne frega, sai. Non ci dormo la notte. Però guarda, per educazione, se tu la vedi, tu come vuoi essere chiamato? Ma non mi interessa come mi chiamano. Non mi interessa. È un'ipocrisia questa qua. E purtroppo la pure presidente. Formigli. Senti, senti, ma senti, se uno te lo chiede, gli dici la presidente. Sarà mica un problema. Ma se mi piace questo così. Ma certo che mi piace. La questione di educazione, mica di altro. Siamo battaglia politica. Siamo arrivati all'educazione. La battaglia, le barricate. Certo. No, perché le barricate, è stata chiamata la presidente. Mezza tristezza. Ho detto che è una tristezza. Ho detto che è una tristezza. Scandalo. È una tristezza. La presidente, ma non vuole essere chiamata così. È una questione di educazione. Tu ospiti una persona in studio, la chiami la presidente. Vabbè. Quando uno viene qui, lo chiami in testa di cazzo e lo mandiamo via. Ma c'è spazio e spazio. Va bene, no? Va bene. Viene qui Pietro D'Ancona e gli dici: tu. Sei Pietro D'Ancona, chiama e gli dici: sei uno stronzo. Va bene, grazie che me l'hai detto. Sei ragione, da altre hai ragione parti tu. Gli hai devi ragione dire buongiorno e buonasera. Posso dire che è una tristezza? Posso dire quella tristezza? Ma se uno vuole sono autorizzato o no a dire che è una tristezza? La presidente non ha diritto di essere chiamata la presidente. Però sentiamo, dai. E intanto io saluto il presidente, la presidente della Camera, Laura Boldrini. Bravo Formigli, ce l'ha fatta. Mi sono corretto in ce diretta. Perché ce l'ha fatta, bene. Non avevo dubbi. Alla terza. Ho sbagliato l'atto di vassallaggio è incredibile. No, invece era molto una divertente. Specie di atto di vassallaggio. Se non è ma costruito, non è costruito l'atto di vassallaggio. Ma era molto divertente. Franco, si è sbagliato provincia anche di Roma. Lui e ci ha scherzato Franco, sopra provincia invece. Di Roma. Era molto divertente. Che cazzo vuol dire divertente? Ho detto che è un atto di vassallaggio. Ma è vassallaggio. Vassallaggio totale. Cazzata. Vabbè, invece sei bravo tu. Franco, vai. Pronto, Cruciani, buonasera. Sì, certo. Decisamente. Posso rivolgere una domanda al dottor Parenzio? Sì. Eccolo qua, prego, caro. Sì. Dottor Parenzio, ma lei ce l'ha una figlia? Parenzio, tre, perché? 3, 3, 3. Dimmi. Tre figlie femmine. No, no, una femmina e due maschi. Una femmina e due maschi. E la moglie ce l'ha? Sì. Allora, se domani arrivano due extracomunitari che violentano la moglie e la figlia femmina. Ecco. Ma che c'entra questo? Appunto, scusa. Ecco qua il genio che chiama. Ecco, quello, questo è quello che è successo ai miei nonni a Frosinone quando sono stati violentati dai marocchini. Tanti anni fa, sì, tanti anni fa. Tanti anni fa. Dunque? In tempo di guerra. E quindi? Quindi, ecco, quindi è giusto che li facciamo entrare, tanto violentano. Ma chi ha mai detto questa cosa? Ma chi ha detto una cosa simile? Ma chi ha mai detto che è giusto che ci siano... Se tu continui a proteggere gli extracomunitari... Ma chi protegge gli extracomunitari? Ma cos'è sta stupidaggine? Ma cos'è sta stupidaggine? Chi è che protegge... Cosa vuol dire protegge gli extracomunitari? Io non protengo i criminali. I criminali, siano essi bianchi, neri, gialli, blu... Ma questi sono tutti i criminali, perché non fanno niente dalla mattina alla sera. Di Napoli, di Bergamo, di Pavia... I criminali non li proteggo. Ecco, appunto. Gli immigrati! Aspettate, ma Franco... già ce l'abbiamo tanti italiani, ma perché dobbiamo prendere pure l'altro? Franco, ma tu sei un po' razzista ancora, o no? Costa. Io sono molto razzista. Molto, in che senso molto razzista? A me non lo dice. Da 1 a 100, 101. Ma vedi, lo dicono tutti, non è una novità. Da 1 a 100, 101. In che senso? Se c'è proprio i negri non li sopporti tu? No, no, negri, rumeni, bulgari, sì, afghani, siriani, nessuno. Tutti. Non solo i negri. No. Gli extracomunitari io non li sopporto proprio. In generale, e tu i neri li chiami quindi negri. Quindi anche gli svizzeri che sono extracomunitari lei non sopporta. Gli sì, svizzeri. Anche gli svizzeri, se vengono gli svizzeri in Italia, sono extracomunitari. Ma scusa, che vuoi, le frontiere chiuse in Italia possiamo circolare solo noi, non ho capito. Magari, stiamo molto meglio, Crucià. Ma ho capito, ma ci sono, anche gente, c'è anche gente che viene dalla Francia, dall'Inghilterra, gente che investe, gente che vive, matrimoni. Per esempio tu non potresti sposarti con una straniera secondo questo principio. Allora ti dico una cosa, sì. La gente se sì, viene qui gente. Con l'intento di lavorare vabbè, e di comportarsi sì, ma già, bene... già hai detto un'altra cosa, tu hai detto io sono razzista al 101%. Sì, e dunque... io sono razzista, però aspetta, mi devo adeguare alle leggi italiane. Quando uno dice razzista, non è che dice c'è cioè, però, uno dice io sono razzista, però, no, sì, sei razzista. Ma dunque... siccome non comando io, perché se io stavo al posto di Renzi, qua non entrava nessuno, sì, ma non sono che... razzista io. Sì, ma evidentemente non sei al posto di Renzi, ma non ho capito non una cosa. Non è vero che tu, non entrava nessuno. Il nero, perché lo chiami negro, per esempio? Interessante sta cosa. Perché lo chiami negro? Guarda, questa risposta non te la so dare perché cioè, comunque li chiami negri, cioè tu non li sopporti, sì, proprio, puzzano, che fanno? Ma no, loro, io non sopporto gli extracomunitari, è differente la cosa. Gli extracomunitari, chi sarebbero gli extracomunitari secondo te? La parola extra... Bulgari, rumeni, rumeni sono comunitari, ma che no, vuol dire? I rumeni sono nell'Unione Europea. Extracomunitari, che vuol dire? Extracomunitari, extra dalla comunità europea. Ah, ecco, meno male, extracomunità europea. Dunque, se vengono fuori tu non li sopporti, invece gli inglesi li sopporti? No, neanche loro. Manco neanche loro. Allora, perfetto, non è che sono sopporti gli extra, non sopporti gli stranieri. Ti stanno sui coglioni gli stranieri. Ecco, bene. Ok, ecco, chiamiamoli, stanno sui coglioni gli stranieri. Se okay, lei ci pensa bene, siccome lei è di Roma, mi pare di capire. Le no, sono anti... di Nettuno. Sono di Nettuno. Ah, scusi. Ecco, quindi essendo di Nettuno, le stanno antipatici pure quelli di Anzio, magari. Vabbè, che c'entra? Quindi loro li odio proprio. Ecco, appunto. Quindi cioè, restringendovi via, rimane lei da solo. Alla fine rimane solo lei di Nettuno, perché le stanno sulle palle anche quelle di Anzio, le stanno quelli di Ponza, poveretti, che abitano davanti a dove sta lei. Sono due paesi attaccati, sì, certo. Le stanno antipatici quelli del Circeo, ad esempio, quelli di Sabaudia. Comunque, senti, Parenzio, ti faccio un'altra domanda. Ne posso dire, allora, sicuri? A perché sicuro a Nettuno, no, ecco, aspetta, lasciamo perdere Nettuno, Franco. Ma Parenzo, che c'ha nel cervello, Franco? No, sono arrivati 500 extracomunitari. Ospitati da uno che aveva una marea di soldi, che se l'ha giocati tutti quanti a puttane, a cocaina. Ma che c'è? Adesso si è preso questi 500 extracomunitari dentro la villa del padre, ha fatto tutti i mini appartamenti e sta prendendo 30 euro al giorno per ogni extracomunitario. Ma chi è questo qua? Chi è questo? Capito? E loro vanno in giro tutti quanti con lo smartphone. Io che lavoro da 20 anni vado in giro con telefono a 19,90 euro. Fermo lì. Ho smesso di litigare con la fidanzata per ascoltare la zanzara. Radio 24 è a Lucca in occasione del Lucca Comics. Per chi non potrà essere lì con noi, il 1° novembre giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, vai su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. La Zanzara. Voglio essere cremato e le mie ceneri in via Monterosa, lì sparse davanti a Radio 24. Chiaro? Questo mi sembra un po' esagerato, eh? Un po' esagerato. Direi. Io ancora non mi capacito che nei primi giorni della cosiddetta rivolta di Gorino, che ha monopolizzato un po' tutta la settimana, Parenzo, in un modo o nell'altro, ci sia un prefetto che è anche il braccio destro del ministro dell'interno Alfano, il quale ha pronunciato delle frasi terrificanti, secondo me a livello, quasi a livello della signora che abbiamo ascoltato prima, diciamo su un piano diverso ovviamente, però esattamente speculari a quelle della signora di prima. E qui c'è solo una parte della frase, cioè si devono vergognare a Gorino, e qui va bene naturalmente, però che lo dica un prefetto che collabora con Alfano, cioè un funzionario, appare abbastanza bizzarro, no? O no? No, perché mi pare normale, allora, mi pare anche il giusto. Il prefetto può dire questo, secondo te, e invece gli abitanti che non hanno responsabilità non possono dire un cazzo. No, va bene, per carità, va bene, questo è il tuo modo di ragionare, va benissimo. Credo che si debbano vergognare le persone di quel comune di Ferrara che hanno impedito di fatto la sistemazione di donne e bambini. Allora, questo tizio si chiama Morcone. Il quale, forse ne abbiamo già parlato questa settimana, dice anche che questi qua devono andare in Ungheria, cioè gli abitanti di Gorino devono andare in Ungheria. Certo, quello è il posto per loro dove costruiscono dei muri. Il prefetto fa la provocazione. Sì, il prefetto fa la provocazione. Beh, intanto certo, anche lui può dire, chi non vuole gli immigrati lasci l'Italia e vada in Ungheria. Vada in Ungheria, no, chi non vuole gli immigrati. Siccome gli immigrati, il comune di Firenze con l'ottimo Nardella si è fatto carico di una buona quota di rifugiati. No, ma io ti spiego. Quindi, allora, la frase è questa: gli italiani che rifiutano l'aiuto doveroso a donne e bambini sono ottusi. Mi vergogno di averli come connazionali. Ha ragione. Se non vogliono vivere nello stesso posto dove diamo accoglienza ai profughi, dice Morcone, andassero a vivere in Ungheria. Sì, o in Arabia Saudita. Noi staremo meglio senza di loro. Cioè, praticamente dice che gli abitanti di Gorino è una che comunità non hanno voluto. Che non... Sì, sono. A parte che sono contro la Costituzione, cioè non rispettano i dettami costituzionali senza ombra di dubbio. Contro la Costituzione. Ma certamente cose inaudite. Il dovere dell'accoglienza, ma non c'è ombra di dubbio. Ma è io così. Sono sicuro che la maggior parte degli italiani sono dalla parte degli abitanti di Gorino. Ma non è vero, quelli che chiamano qua ogni tanto, questi razzistelli. La maggior parte degli italiani, assolutamente no. Tant'è che molte città, compresa la grande Milano, fanno un'accoglienza superiore a quella che dovrebbero fare. Cioè ci sono, per colpa di personaggi come quelli di Gorino, personaggetti, 20 personaggetti di Gorino, 20 peraltro, 25, compresa una vecchia di 70 anni che ha vissuto in Sudafrica e che incita alla separazione tra bianchi e neri. Sì. Ecco, per colpa di queste 20 persone ci sono molte città che accolgono molti più immigrati di quelli che dovrebbero. Se tutti facessero la loro parte, l'Italia non ci sarebbero queste piccole zone di crisi. Hai fatto ecco il comizio? Qua. Ma no, ma perché è così, è un dato di fatto. La pulizia etnica degli italiani, Salvini. Questa è una pulizia etnica ai danni degli italiani, e quindi noi alla pulizia etnica ci ribelliamo, abbiamo il diritto di ribellarci. La pulizia etnica, mamma mia. Voci da Goro, Grillino, almeno questo si presenta come Grillino. Siete contro di noi, c'è contro voi la cassa dei giornalisti, quello che... La cassa dei giornalisti. Beh, perché che fate informazione? Avete cancellato la parola clandestino, che cos'è negro? Che cos'è negro? Perché negro significa... infatti glielo sto dicendo, lo vuole... Negro è una parola, che sono neri, dei capelli linute come ce l'ha lei, come le pecore, e le labbra, questa è la parola. C'è negro, negronone, negro. No, ma quale spregiativa? Ma questa era eccezionale, però, perché i capelli com'erano lanuti? Cioè i capelli lanuti, cioè lanosi, i capelli lanosi come ce l'ha lei, negro. Ma ha ragione, è stata cancellata la parola negro come se fosse una cosa dispregiativa. Cioè, beh, viene detto in modo dispregiativo. Ma no, da questo no, da questo tizio no. Allora, dove andiamo? Andiamo a Milano, Raffaele, vai Raffaele. Allora, Cruciani, io vi ho chiamato perché sono un po' stufo, sinceramente, sono un po' incazzato, cioè... come non bisogna generalizzare per questi ragazzi di colore che vengono da fuori e cercano lavoro e non sono tutti farabutti, mai detto cose di questo tipo, mai. No, lo possono diventare, ovviamente, stando qui a non fare una mazza dalla mattina alla sera. Come gli italiani che non fanno una mazza dalla mattina alla sera, uguale. Gli stati di solito si organizzano, cioè da questo punto di vista, si proteggono da questo punto di vista. Sarà sbagliato. Sì, tu sogni un mondo aperto dove tutti possono transitare, dove tutti possono. Va benissimo. Vanno pensate delle politiche per un mondo aperto, perché è così, è già così. Comunque il discorso era un altro, cioè mi attaccavo a questo nel senso che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio con questi cacchio di vegani, cioè sarà una volta che riuscite a chiamare un cazzo di vegano che non sarà una testa di merda come quella che ha chiamato prima. Abbiamo chiamato 40.000 volte, dai, su, mi ha anche stancato discussione qui. Caro Raffaele, ogni tanto rispunta fuori questa roba qui. Abbiamo beccato la matta. Tra l'altro, ti dico la verità, tu sei vegano? Sì. Sei vegano? Vabbè, mica non me lo devi dire come abbacchiato, lo devi rivendicare orgogliosamente. Sei vegano e rivendica il fatto di essere vegano. Sì, nel senso che mi arrabbio perché dico: ma è possibile che ogni volta che si chiama in radio, ogni volta che si rappresenta in rete, sui social network. Amico mio, datti una risposta da solo. Cioè, se questa signora qua pensa che io, che mangio la carne, sono un assassino e tu non lo pensi. E devi dire a questa signora vai a fare in culo, non lo devi dire a me che l'ha intervisto. Io sono stufo di essere tra virgolette. Tu evidentemente lo fai per uno stile di vita, immagino, no? Io lo faccio per uno stile di vita, per un grande rispetto della vita e per soprattutto ho avuto che cosa? Anche tu per un motivo etico pure ho tu. Ho avuto problemi di che tipo? Con la polizia. Di nutrizione. Di conseguenza sono arrivato a questo. Ma sei arrivato a questo, hai fatto la tua scelta libera, eccetera, nessuno te la contesta, però non è che puoi rompere il cazzo a me. Che mi mangio la bistecca alla Fiorentina a Parenzo che va al ristorante ogni giorno a portare i suoi bambini a mangiare chili di carne. Però che palle essere rappresentati. Ma non sei rappresentato, quella rappresenta se stessa. In rete, poi quando ma chi se ne frega della rete? Perché date così importanza a quello che avviene in rete? Ma chi se ne frega? Quando una cosa ti riguarda, quando una cosa ti capito? Riguarda, però la rete, ma chi se ne frega? Tu rappresenti quella, rappresenta solo se stessa. Ciao Giorgio Bari, vai. Eccolo. Dimmi Giorgio, dimmi. Ciao. Senti, io innanzitutto approfitto perché ieri sera ha chiamato una signora e fino adesso non avete ritirato fuori l'argomento. La signora che ha dichiarato pubblicamente di amare il membro. Adesso stiamo organizzando una grande cosa, ho ricevuto un sacco di messaggi. Ecco, quello volevo essere aggiornato sulla ti vuoi proporre come amante di Laura? Certo. Ma non è che vuoi proporre come amante di Laura. Tenete in considerazione. Benissimo, cominciamo a segnare Giorgio da Bari. Quali caratteristiche? Scusami, adesso il contest ancora non è iniziato. Inizierà la settimana prossima con tutti gli onori, con tutte le persone. Io la settimana prossima sono fuori, non posso. Pazienza, Giorgio. Grazie. Però quali sono le tue caratteristiche? Dacci subito un assaggio, no, Parenzo? Perché ti proponi? In virtù di cosa? L'assaggio lo deve fare la signora direttamente. No, ma non in quel senso, amico mio. Come sei triviale, come sei proprio basso. Scusa. Cioè, quali sono i tuoi atu? Quali sono le tue qualità? Che cosa proponi alla signora? Livello culturale, livello che ne so, di prestazione sessuale? Qualsiasi cosa proponi a Laura? Cioè non è che questa qua prende tutti, no? Cioè giustamente magari Sei sicuro? Secondo me no, ma adesso perché la devi bistrattare così? Ha detto mi stupisce questa tua presa in posizione, mica è un insulto che la signora prende. Ma no, assolutamente, però non è che esce col primo arrivato, cioè non è che uno si presenta, sì, sono Giorgio da Bari, non lo so, qual è la tua qualità migliore? Cosa le vuoi proporre? La mia curiosità, questo è un po' mi mette un po' in difficoltà perché è pure a dire da solo. Sei fidanzato? Sei fidanzato? No, questo mi rende anche sei libero. Maggiormente sei disponibile. Sei liberissimo. Liberissimo anche ad andare a Milano? Ma sì, ogni tanto ci si va a Milano. Ad venire apposta a Milano, non può essere così semplice conoscere Laura. Apposta a Milano, verresti apposta a Milano? Ma sì, si viene apposta a Milano, vado in Germania. Ma no, a che fare? Sì, ma non è che può essere casuale, passo da Milano, eccetera. No, uno deve venire apposta. No, se prendiamo un appuntamento, vengo direttamente, ci facciamo organizziamo. Vabbè, aspetta un attimo. Meglio un giorno da Donato che 100 da Parenzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, mi stanno chiamando in sala operatoria per andare a operare e c'è la zanzara. E se operassi con le cuffiette? No ragazzi, operare con le cuffiette non va bene, eh? Non va bene, qui si va contro la legge, pericolo di che la gente crepi in sala operatoria, non va bene, non va bene. Però ci piace l'idea che ci siano dei chirurghi che nonostante gli impegni professionali, caro Parenzo, si mettano le cuffiette per ascoltare la zanzara, magari può dare anche la carica. Sì, basta non sia un chirurgo. La carica in sala operatoria, la carica. Sì, basta che non sia il chirurgo che proprio taglia, diciamo, ecco. Beh, come magari. No, e qual è allora? O l'anestesista, magari sono gli aiuti, lì, gli infermieri, può anche aiutare, pensandoci bene, può anche aiutare, ma perché non può essere un chirurgo, non ho capito, deve essere un infermiere. Sì, il chirurgo che ascolta la zanzara mentre taglia. Oh, mi farebbe un po' paura, mi farebbe francamente. Scusa Cruciani, mettiamo caso che Luxuria fosse presidente della Camera, come dovremmo chiamarla? La presidente o il presidente? Questo è un buon interrogativo, credo la che lei vorrebbe essere chiamata la presidente. Lei vorrebbe essere chiamata donna. No, non è una donna, è una transessuale, non è una donna, cioè non dire cazzate. Dice sempre è che una si trans. Considera una donna, ma quindi non lo so, si considera una donna, è lo una dice trans. Sempre no, veramente non si considera una trans, non una donna. Cioè, se tu mi vieni a dire che Luxuria è una donna, scusa, con l'uccello, ma di che stiamo parlando? Infatti si chiama Vladimir. È una transessuale, cioè è una trans. Poi se uno si taglia l'uccello, fa il passaggio, come sai, no? Tutta l'operazione, tutta la procedura, e poi prende anche, no, il nome da donna, allora è un altro discorso. Ma finché Vladimir Luxuria, con tanto di, no, di bigolo, di che stiamo parlando? È un uomo, formalmente. Poi lei vuole essere chiamata donna, dunque nel caso in cui, che non si avvererà mai, diventasse presidente della Camera, io lo trovo, ripeto per l'ennesima volta, chi si esprime in questo modo e non è convinto, lo trovo veramente un atto di vassallaggio. Però va bene, pazienza, come dici tu, non è che sia la fine del mondo, per carità, però lo trovo un atto di vassallaggio, un atto di omaggio ad una fissazione che è quella del presidente della Camera. Educazione, pure. Senti educazione. Questo che dice, che figlio non fare, che c'entra, vabbè, lasciamo perdere, dai. Educazione, lasciamo si perdere, chiama, lasciamo perdere, dai. Cioè chi non lo fa è ineducato, cioè, beh, vabbè, certamente, vabbè, chi certamente non lo fa è ineducato, vabbè. Ma questi invasori che vengono a rompere i coglioni, si dice che scappano dalle guerre, hanno la pezza al culo e vengono con i figli, ma che cazzo figliano a fare se non li possono campare? Come lo definisci questo? Questo qua? Questo. Un cretino, un povero cretino proprio. Allora ragazzi, dove andiamo? Gianni Ascoli, vai. Sì, ciao. Vai, di. Sì, pronto. Vai, dimmi. Sì, io volevo dire una cosa molto semplice. Sì. Questa storia del razzismo, delle cose, mi sembra una stupidaggine. La prima cosa che voglio dire è che per me l'ultimo nero dell'ultimo villaggio, dell'ultimo paese più sperduto dell'Africa, c'ha lo stesso identico valore e stima dell'Obama presidente degli Stati Uniti d'America. E allora? Meno male. Detto questo, però, noi dobbiamo smettere di dire che sono razzisti quelli che vogliono chiudere le frontiere. Qui crolla il sistema economico, sociale, culturale, tutto. Fanno crollare 3.000 persone. Andiamone ad aiutare più, andiamone ad aiutare nei paesi loro. Va bene, questo va bene. Dunque, siamo d'accordo. Non è raccontato a dire che siamo razzisti, dobbiamo chiudere le frontiere, non possono entrare 3.000 extracomunitari al giorno in Europa, crolla tutto il sistema che malamente sta reggendo. Crolla Gianni, tutto, ho capito, crolla. Benissimo. Massimo, provincia di Ancona, vai Massimo. Sì, ciao ragazzacci, buonasera. Vai, dimmi. Allora, volevo dire. Comunque, ripensandoci bene, un attimo solo, Massimo, adesso poi vengo subito da te. Ripensandoci bene alla storia del prefetto Morcone, no? La gente non sa chi è il prefetto Morcone perché è un grande funzionario dello Stato. No, la gente non lo sa chi è il prefetto Morcone. Il prefetto Morcone è il braccio destro di Alfano. Ma chi se ne frega? La massa di persone che ci sta ascoltando non sa chi è il prefetto Morcone. Chi va in radio, ma non è che il camionista lo sa. Ma non è perché ascolta la radio tutto il giorno. Massimo fa la parola Morcone. Massimo fa il camionista, giusto, Massimo? Sì, adesso sa che c'è un prefetto. Lo sapevi prima di sentirlo qua chi è il prefetto Morcone? No, non lo sai, ma è normale che tu non lo sappia. Per due minuti mi dimenticherò anche chi sia. Esatto, bravo, ma è normale che sia così. È uno stretto collaboratore del signor Alfano, un prefetto, il quale, pagato dagli stessi abitanti di Goro, perché viene pagato con i soldi. C'è l'interesse nazionale. Ma quale interesse nazionale in questa cosa? L'interesse nazionale è superiore all'interesse di 20 persone di una comunità. Ma ti sto dicendo questo. Allora vorrebbe dire che quando tu devi far passare un'autostrada, se 20 persone che la bloccano, dici: no, ma quelli hanno diritto a bloccare l'autostrada. Col cavolo, non è la stessa cosa. Qui c'è un interesse nazionale che si chiama accoglienza. Vabbè. Il tema è l'accoglienza. Vabbè. Visto che non, a meno io che sto uno, dicendo semplicemente che devono sto morire dicendo in che è un'altra cosa. Sto dicendo che il signor Morcone, ecco, si che permette applica, di che agisce in nome per conto dello e allora Stato, quindi in invece virtù, di calare le braghe, quindi se in virtù delle, lui ha giustificato dicendo volevo evitare degli scontri non può con dire la agli abitanti di Goro che devono andare a abitare in Ungheria. E ha detto che vanno in Ungheria, come dire, lì è un paese che fa per voi, perché è un paese che fanno i muri pagato dagli stessi. Andate in Ungheria. Ma non è pagato dagli stessi, anch'io pago Morcone. E sono contento anche quello di Goro, anche quello di Gorino. Quei 20 di Gorino vanno contro l'interesse nazionale. Ma chi l'ha detto che vanno contro l'interesse nazionale? Lo Stato ha deciso che gli immigrati vanno sistemati in tante città italiane. Tanto ha deciso che se la sono fatta sotto. Massimo, vai. Lo ha deciso lui per evitare uno scontro e quindi, come dire, acuire lo scontro con la popolazione, ha deciso di non farlo più. Allora niente, volevo dire che io faccio il camionista da tanti anni, sono tanti anni che trasporto carne. Sì, sì. Quindi non mi sento né carunte né un assassino, lo faccio perché devo sfamare la mia famiglia. Sì, ma non te ne frega nulla naturalmente di trasportare carne, non è che ti senti colpevole di qualcosa perché trasporti la carne in giro per l'Italia. Anche perché potrei trasportare preservativi, biciclette, però siccome è un camion frigo trasporto carne. Volevo dire che a me quella signora, sinceramente, più che incazzare mi fa pena. Beh, anche a me profondamente pena, la reputo una rincoglionita totale. L'ho sentita parlare, ho guardato qualcosa su Facebook del suo profilo. A me quella persona lì fa pena, perché è una persona che dice certe cose. Io ho due bambini, uno di 4 e uno di 6 anni, a curare il tumore a un bambino mi sa accappona la pelle. Sì, girano alcuni fake, credo. Girano alcuni fake in cui lei avrebbe chiesto scusa, ma non me ne frega un cazzo. Puoi chiedere scusa quanto puoi vuoi. Puoi chiedere scusa, puoi fare quello che vuoi. Io ti dico, giro nei macelli, vado nei mattatoi, vedo arrivare gli animali vivi, li vedo, li carico morti. Diciamo, non è piacevolissimo. Però è una cosa che è sempre stata gestita dall'età della pietra, penso, voglio dire. E poi parliamo di industria alimentare, che poi una volta magari il contadino... No, ma Massimo, aveva... hai perfettamente ragione. Allora, Angelo da Pescara, vai, Angelo. Ciao, buonasera, ciao. Dimmi. Una cosa semplicissima, no? Ma perché, qual è la differenza? Perché uno non può dire negro? Ma io lo dico perfettamente, io lo dico. Perché è usato in senso dispregiativo. A parte il fatto che prima al signore là gli hai detto: ah, ma tu dici negro, non dici nero, perché... Perché si può dire negro? Ma chi ha detto? Io lo dico tranquillamente, allora, non è un problema. Dici, bravo, perché non posso chiedere a qualcuno perché lo dice, non ho capito, non hai capito non capisci la distinzione, allora? Io sì. E allora, no, la distinzione tra quando uno domanda una cosa e quando uno la dice sono due cose diverse. Stavo domandando a quello perché dici negro. Però ti posso chiedere. Lui lo usava in senso dispregiativo, sicuro. Io sono di sinistra. Parenzo, io sono di sinistra. No, ma guarda che ma c'è un sacco, sinistra o c'è destra, un sacco di gente di sinistra che farebbe la stessa cosa che hanno fatto gli abitanti di Gorino, identico, uguale. È pieno di sindaci in Italia che dicono basta, non mandateli. Infatti, e sbagliano, non è questo di destra o sinistra. C'è l'interesse nazionale. Sbagliano l'interesse nazionale, è certo che c'è, se no vanno tutti in quale città, se no finisce che l'accoglienza se la deve sopportare solo Firenze, solo Milano, che ne ha già tantissimi. Angelo, che volevi dire? Allora, no, perché tu si fregni, no, perché nel senso che tu hai focalizzato perfettamente il problema. Qual è il problema? Il problema è proprio questo, nel senso che la sinistra oggi è cambiata completamente, che io non mi ci rispecchio più. Ma per quale motivo oggi dobbiamo difendere gli omosessuali? La sinistra, essere sinistra difendi gli omosessuali, allora sei un drogato, e allora non devi dire negro, devi dire nero, è perché tutte quelle dopo magari e devi dire la presidente, devi dire la presidente per forza, no, quelle sono cose diverse, altrimenti sei sessista, perché? Altrimenti sei sessista, capito? Basta, bravo, basta. Bravi. Allora il discorso è questo: negro, io me lo voglio dire perché l'altro giorno mi pare che l'ho ascoltata a Melog. Vabbè, mi pare. Allora si diceva che negro deriva dal francese, mo sul francese lo sai meglio di me. No, non credo, è noir. No, è bravissimo, naso grosso. Vabbè, giusto? Può essere, allora? Oh, bravo. Allora, qual è l'offesa? Ma sì, uno, effettivamente, io ci ho pensato. Dipende, allora, naturalmente dipende anche uno come lo dice, no? Se dici direi, sporco, direi, negro di merda. No, ma dipende dal contesto e da come viene detto, ovviamente. Ma perché, no? Se stiamo dicendo cose banali, mi state disturbando? Ovvio. Caro Parenzo, comunque la rivolta di Gorino, non è isolata, ci sono molti sindaci di sinistra, di destra, di centro, eccetera, che lancia in resta, dicono non ce li portate qui non ce li vogliamo, accanto alle case degli anziani, accanto alle case dei pensionati, accanto alle case dei padri di famiglia, delle madri che girano con i passeggini, comunque non vogliono rotture di coglioni. Queste cose qui da un certo punto di vista vanno comprese. Adesso ci colleghiamo, caro David, con un sindaco che magari ci può spiegare cosa accadrebbe se nel suo paese, un paese civile, un paese in provincia di Vicenza, forse hai già capito, un paese che ha come la prima lettera è la A e finisce in E. Provincia di Vicenza sono un sacco di posti meravigliosi, Vicenza. Dove sono stato. C'è un paese che si chiama Albettone. Oh, mamma Albettone. Mia. Oh, mamma Formaggio, buonasera. Mamma mia, mamma buonasera. Mia, mamma ciao a tutti, ciao. Come mamma andiamo? Mamma mia, mamma tutto mia. Bene, mamma. Tutto bene, tutto bene. Zero profughi all'orizzonte. Cioè tu prendi il binocolo con fucile naturalmente a tracolla. A confine di Albettone non c'è nessuno. Ecco, prendi bene il binocolo, niente, nessuno. Ma se un prefetto, il prefetto di Vicenza in questo caso, no? Il tuo prefetto, sì, dovesse dire, bene, ad Albettone vengono 25 profughi. Che succede concretamente nel tuo paese? Cosa accade? Allora, le barricate di Gorno e Gorino saranno passeranno in secondo piano con quello che succederà ad Albettone. Sì, abbiamo inaugurato domenica la pista da sci sintetica più grande d'Italia e non vogliamo... Pensa non che vogliamo coglionata. Essere comunitari. E non pensa vogliamo... che coglionata. Con le montagne, ecco, vicino da Vicenza in un'ora arrivi, perché in posti meravigliosi in montagna in agosto. E questo spende soldi per sciare ad agosto. È una delle più privato. Grandi coglionate che posso sentire. Mi pare una una grande coglionata. Ma scusa, dal ma Bettone, cazzi suoi la o no? Famosa ma scusa, sciata dal Bettone. Vedo già le masse che da Roma partono dicendo con lo sci in spalla andiamo ad Albettone a sciare. Già la Bettone vai a sciare, no? La Bettone, allora, no, ma cosa dici? La Bettone per montagna. Tutti gli amici della Zanzara, no, vado dal Bettone, ma solo un ebete può fare una pista da sci ad Albettone. Ma a Dubai ci stiamo fanno, ancora aspettando a dovevi Dubai venire fanno. Con i Rom, mamma dovevi mia ragazzi, la quando genialata, ma ti manderei i Rom lì a sciare ad Albettone, ma neanche loro ci vengono, ma che distruggere, ma figo, magari c'è del rame da rubare, ma che il genio, il sindaco di Albettone dice faccio la pista da sci dove? Ad Albettone. Dov'è Albettone? Vicino di Vicenza, dove in un'ora arrivi in posti straordinari, a Cortina, ma non puoi sciare in agosto, invece ad Albettone vieni a sciare in agosto. Ma chi è il pirla che viene dal Bettone a sciare in agosto? E ti ricordo che abbiamo anche il polino di presentami tiro. un idiota voglio scusami. Sapere un idiota, ma scusami, ma che ti frega te e va dal Bettone. Vabbè, che prima di oggi non sapeva che esistesse sto paese. Ma pensa che a te, c'è il ma quei numero... soldi investi di migranti, il numero di porto d'armi di tutta la regione Veneto. Dove? Ad Albettone? Il poligono più grande d'Italia. Ad e Albettone. Qua non vogliamo nessuno che venga a rompere i coglioni. Scusami Gio, ma che succede? Ripeto la scena. Arriva perché poi con questa storia della pista da sci. Ma ti faccio un esempio. Ma mi pare la cosa allora, più idiota. Era luglio, ma lascia stare luglio gli immigranti. Ma la cosa più idiota lasciami che ho sentito attimo. È che uno fa una pista sintetica ad Albettone che fino ad oggi non sapevo neanche che cazzo esistesse. Ma scusa, ma quello in poi... provincia aspetta. Di Vicenza, dove in un'ora uno va in montagna vera a sciare. Ma perché quando uno deve andare dal Bettone a sciare? Ma questo è pazzo. Vabbè, allora ti racconto una cosa. Dimmi, Gio, ti racconto una cosa. A luglio Mamma mia. Un mio questo è un amministratore. Cos'è della Lega questo qua? Di che cos'è? È un siciliano che ha tre case ad Albettone. Sì, sì, sì. Viene nel mio ristorante e mi fa: caro sindaco, ho deciso una cosa. Dimmi. Sì. Ospitiamo 4-5 negretti. Li ha chiamati lui così. Sì. Vabbè, anche tu li chiami così, adesso non ti nascondere. Sì, no, io li chiamo anche peggio, però non cioè, te lo come dico li chiami? In radio. Scusa, come li chiami? Allora, come li chiami? No, ma adesso no, Gio, non puoi fare così. Come li chiami? No, dopo te lo dico alla fine. No, perché sennò sennò mi interrompete. Allora arriva qua, mi fa: mi sono messo d'accordo con l'operativa e ne mettiamo lì. Io ho detto: guarda che rischi grosso. Il giorno dopo vado a casa sua, mi offre il caffè, mi dice: sindaco, ci hai pensato? Ho detto: guarda, ho parlato con alcuni paesani e mi hanno detto che se succede una cosa del genere, sì, siccome siamo in campagna qua, sì, no, ci sono, sì, anche, sì, tanti allevamenti di mucche, sì, sì, riempiamo la casa di letame fino al soffitto. Allora tu una mi stai dicendo, però tu, tu hai preso spunto da questa cosa qua per dire: se ci portano i profughi e individuano le case ad Albettone, cos'è che fai, Gio? O le muriamo o le riempiamo di merda. Beh, questo, come è buono, qua, questo non è buono. Un cittadino di Albettone. Mamma i cittadini di Albettone, nessuno affitterà mai niente a nessuno, perché ho già fatto il giro di tutte le case. Cioè, perché non fai un questo bella... qua è un siciliano che sta parlando, che un sindaco che ha fatto una pista artificiale da sci non a Dubai ma ad Albettone, ad Albettone, ma siamo e vuol far sciare abbiamo la gente ad agosto ad Albettone, la ma qui pista siamo da sci. A malattia mentale siamo. Scusa, sta dicendo una cosa molto chiara, sta dicendo una cosa molto chiara, che se il prefetto di Vicenza, il prefetto di Vicenza gli dice: metti degli immigrati, ma ad non glielo Albettone, chiedono neanche, perché l'immigrato che è più intelligente, che cosa, di Gio Formaggio, ma no, ma se ha l'idea di andare in un posto dove si scia ad agosto, vabbè, quando tu puoi cosa andare sulla Marmolada, sei un idiota. Se tu vai lì sei un idiota, dimmi cosa, capito? Viene a fare, dimmi cosa viene a fare un immigrato del Albettone. Nulla, che rischia non la viene pelle a fare niente, perché non c'è, allora, niente, infatti, se non un sindaco che è un idiota. Perché rischia la pelle, non ho capito. Ma sì, ma allora ti dico, c'è un immigrato da noi, se viene rischia la pelle. Hanno messo fuori, vabbè, allora, okay, 3-4 mesi mia, fa mamma, hanno messo fuori dei manifesti, mamma mia, sindacati eccetera, hanno messo fuori dei manifesti con scritto comune razzista nelle tabelle dell'ingresso, no? Te credo. E ho detto, certo, ho detto agli operatori: lasciatele là che capiscano che siamo razzisti. Ah, cioè tu sei orgoglioso. Cioè ormai diventa ma normale, sì, professarsi, sì, razzisti, a questo siamo. Ma sì, perché il 90% sì, degli italiani non ne possono più. Parla con la gente invece di stare lì in radio. Allora, in giro al mercato. Siamo arrivati, mi sembra, a due conclusioni importanti. La prima, cioè, è questa: uno che rivende, un sindaco che rivendica di essere razzista. Sì, che ha detto che è orgoglioso che gli hanno messo manco gli adesivi. Manco negli Stati Uniti, manco in Arizona. No. Ci sono, porta Trump. Manco in Arizona ci sono dei sindaci che si definiscono razzisti. Manco in Arizona. Vai, guarda. Donald. Ah, aspetta, ti dico un'altra cosa. Rispetto agli immigrati e l'Islam, sì, no? Sì. Questa sera nel mio ristorante c'è la festa del maiale. Dall'antipasto al dolce si mangia solo maiale, se, fa benissimo, quindi non possono venire dal Albettone. Ma non ci verrebbero comunque, ma ancora non ha capito. Io sono contentissimo, ma l'immigrato è intelligente, non viene a fare nulla dal Albettone, niente, niente, niente. Scusa, arriva i neri... dall'Africa e dice: ma io sarò africano, vengo da un paese molto povero, ma sicuramente non sono così coglione da costruire una pista da sci in Africa. No, questo sicuro, allora, guarda, sicuro. I Roma non vogliono venire, no, i negri non vogliono venire. Siamo tutti a posto. Però scusami un attimo, siamo arrivati a due conclusioni, poi mi avete interrotto ogni volta in questo vostro... Ma sì, ma se uno fa una pista da sci, ma oddio, questo ma è uno la può follia fare una pista da sci come il vuole. Fatto che sia un razzista lo sappiamo, secondo me alla dovrebbero inquisirlo almeno. Alla prossima settimana ci sarà anche il progetto dell'aeroporto, piccolino, sì, ma... l'aeroporto ho detto... Però scusami Gio, io voglio capire una cosa, allora tu praticamente dici: se mi mandano gli immigrati o muro le case o le riempio di merda. Dici: sono orgoglioso che mi hanno messo quegli adesivi là, la CGL, infatti la non sinistra. Li ho fatti togliere, li ha, cioè, tolti perché, il vento e la pioggia. Allora, paese attacca una cosa te direttamente, fai un cartello: paese orgogliosamente razzista. Cioè, potrebbe essere... Prima parlo con l'avvocato, perché ho già tre avvisi di garanzia, non vorrei prendere il quarto. Vedi. Paese orgogliosamente, cioè, razzista. Meno allora, male che ti hanno mandato l'avviso di garanzia. Secondo, meno male. Secondo te i negri hanno un quoziente di intelligenza più basso? Molto più basso. Molto più basso. Sì, sicuramente non fanno, piste da sci a Marrakech. Questo è sicuro. Perché puntano su altro. No, invece ci sono. No, sicuro, in Marocco si può sciare. Ti sbagli. Fanno piste. Ti sbagli perché in Marocco perché si può sciare. Perché ci sono montagne, ma non piste da sci artificiali costruite sulla pianura. Esportiamo cervelli, mia, e portiamo, ragazzi, negri. Pensa, ecco, dove avremo. Lei però purtroppo rimane sempre qua. Questa è una bella battuta. Questo è il dramma. Lei purtroppo rimane sempre qua e non espatria mai. Allora, siamo con il mitologico Gio Formaggio, sindaco di Albettone, uno dei miei miti assoluti, come avete capito è anche il mito di Parenzo, diciamo al contrario. ci sentiamo dopo la pubblicità, perché ci deve spiegare questa cosa, com'è. Noi esportiamo cervelli, ma importiamo disgrazie. No, negri, hai detto. Che hai detto prima? Adesso non è che fai la battuta e ti tiri indietro. Che sei scemo, sì. L'hai già detto, l'hai, che fai? La ripeti, aspetta. Donato da Varese, prova a cambiare droga per un po'. La Zanzara. Mentre ascolto il vostro TG, apro la carta d'identità e vedo cittadinanza terrestre, razza umana. Sono un essere umano, sono un cittadino della terra e vado dove cazzo voglio, senza confini, senza stati, senza muri, senza barriere. Vado dove cazzo voglio. Vai Parenzo, non mollare mai, sei tutti noi, stai veramente al top. Parenzo direbbe: questo è il paese reale, questo è il paese, no, questo... no, la maggioranza silenziosa. Sì, sì, quelli che certamente. Ma quale maggioranza sicuro, silenziosa? Sicuro. Quelli che auspicano un mondo tutto aperto, aperto dove non ci sono barriere, non ci sono confini. E già facciamo così, la gente tutti, viaggia per lavorare. Ma quello che la gente si sposta, per lavorare, impara, per lavorare, viaggia, per lavorare, lavora, appunto, va, lavora, va, studia. Va, si sposta da un paese all'altro. Non è che questi vengono qui per andare a sciare ad Albettone. Questi non hanno il desiderio, non anelano quando partono, attraversano, sì, il mare, anche, di andare in quel postaccio lì. Ma perché dove postaccio? Hanno deturpato, ho visto le foto adesso, dove andate a vedere cosa ha fatto, lo sfregio che ha fatto questo sindaco, che c'è un posto che nessuno conosceva, ha costruito una pista sintetica da sci a vicino a Vicenza, al Bettone, dove uno quando vuole può andare a sciare tranquillamente. Beh, in una, certo, vera montagna. Vabbè, che, beh, che c'entra? Ma dai ragazzi, ma scusa, ma la gente non è tutta ricca come te, è che può andare, che può andare nelle baite da 250 euro al giorno, vergognati. Ma uno può andare dalla mattina alla sera a sciare ad Andalo, sì, a fare della, no, Paganella, ovunque, ma non vada al Bettone, sicuramente non vada al Bettone. Joe, il problema, Joe, è che non tutti hanno i soldi, capito? Ma Parenzo non lo capisce. Che stupidaggine, che stupidaggine. Perché stupidaggine demagogica proprio, allora, per andare tutti hanno torniamo i soldi, come se lui fosse povero. No, cazzo, assolutamente no, tutt'altro, però almeno non faccio finta di esserlo, però. Scusami. Ma io non ho mai detto di essere povero, ma mai detto in vita mia. Anzi, quindi, odi i poveri, non sopporti la povertà. Ma che stupidaggine. Non sopporti la povertà. Ma chi te, ma che stupidaggine è? Allora, però, la cosa fondamentale è questa, mi sembra di capire che Gio Formaggio abbia detto delle cose, Parenzo, che restano delle pietre. Ha detto delle vergogne, ha detto. Tu allora, ti diverti, ma hai detto delle vergogne. No, che mi diverto. Sì, ho detto, sei compiaciuto che ha detto delle quel cose paese, incredibili, ma quel ormai paese è tutto mi farlocco. Piace, quel paese anche mi lui piace. È farlocco, no, farlocco ormai. Farlocco? Ma è un personaggio farlocco. Ma perché è farlocco? Che è vuol dire? Un personaggio che appartiene alla commedia italiana, non è un dire sindaco. Commedia italiana? Come no? Alla commedia, allora, è fa ridere, non fa disgrazia. Contro di me ad Albettone. Vediamo quanti voti prendi. Candidati, no, tu ma non me ne frega niente, io se mai, ma non me ne frega nulla, sarebbe bello fare vieni una lista con la Chienge, che con la Chienge l'ex ministro verremo, che ti fa la campagna elettorale, vediamo quanti voti prendi dal Bettone. Comunque l'ISIS, croci spezzate è una statua della Vergine Maria frantumata, la profanazione dell'ISIS, ecco, nella chiesa cattolica di San Giorgio a Bartella, 20 km a sud di Mosul, e così noi li lasciamo occupare il Colosseo e metterli là in preghiera. Vabbè, non è che lì olio di ricino. Ma per chi Manganelli e olio di ricino? Per quei musulmani del Colosseo? Cominciamo da loro e dopo andiamo avanti. Però scusami, Gio, questo signore che... qua è un esponente della dei Fratelli d'Italia, del partito della Meloni, questo signore, sì, lo ripeto. Non so se il partito della Meloni è a conoscenza che c'è in Italia che un signore... Con lui. C'è un signore che dice di essere sindaco, sì, è sindaco, è sindaco, beh, certo, è che sindaco, nell'ordine si proclama, senti, razzista. Senti le campane della chiesa in sottofondo. Si proclama razzista. Fammi sentire le campane. Fa sentire la chiesa, fammi e non ha un atteggiamento fammi cattolico, sentire le campane, mi pare. Fammi senti le campane in sottofondo. Benissimo, ottimo, certo. Belle le campane. Perché ho un ristorante sotto la chiesa. Me ne frega, ecco, cazzo, presto costruiremo. Presto ci sarà anche un muezzin, magari, e una moschea, magari. Sarebbe no, molto no, bello. No, no. Centro di culto ad Albettone. Centro di culto. Guarda, no? Facciamo sarebbe il più giusto grande allevamento d'Europa di maiali. Se dovesse essere che vogliono aprire una moschea, cioè, ad Albettone. Capisci che una persona così è una macchietta. Perché se parla perché seriamente. No, perché? Ma perché parla ascolta, perché offende. Offende milioni. Occupati della pista da sci, che già è un fallimento, ma scusami, assoluto. Ma Maometto era un pedofilo secondo te?

E che quello... ci vorrebbe, scusa, lui? Ci vorrebbe lui? Lui? Ci vorrebbe lo zio. Lui. Lo zio Benito, dici, lo zio Benito. Erano tempi, che tempi. E non tornano più, come diceva Totò. E non tornano più. Ciao. Ciao. Veneto uguale Medioevo. Veneto uguale Medioevo. La Zanzara. Servi della Zanzara fuori, senza dubbi né ripensamenti. Parenzo bello e libero, guarda avanti. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Allora, Davide, volevo dirti, per chiudere il discorso... Se quella c'è, io non parlo. No, non c'è. Volevo, perché è vergognoso. Vabbè, volevo dirti che ho incontrato a Padova domenica scorsa Younis Taufik. Sai chi è Younis Taufik, no? Forse il grande pubblico della Zanzara non sa chi è Younis Taufik. Tu lo sai chi è, no? Sì, certo. Sì, come è uno islamico, iracheno, se non sbaglio. Sì. È un intellettuale, diciamo, che è praticamente cresciuto in Italia da quel punto di vista, no? Credo che insegna in varie università. Grande ascoltatore della Zanzara, ha detto: guardate, io nella vicenda che avete aperto l'altra volta su Maometto, mi sono divertito come un matto. Cioè, non mi sono sentito, ma glielo puoi chiedere tranquillamente, non mi sono sentito per nulla offeso, perché penso che la discussione sia assolutamente normale da questo punto di vista. Poi dice: naturalmente io non credo che sia così. E poi mi ha raccontato la sua versione anche suffragata dalla storia, che in realtà non c'è stato rapporto fino a quando questa bambina la Isha... È l'intento offensivo della discussione, del modo come viene usato e detto. Non è un convegno sulle religioni. Ti sto raccontando che il signor Younis Taufik, islamico, molto non particolarmente religioso, diciamo, che non è che sia uno... Per nulla, ma non è una colpa quella. Assolutamente, è un signore, giustamente. Però islamico. E tra l'altro mi ha suggerito una cosa. In Marocco nei giorni scorsi c'è un giornalista marocchino, islamico, eccetera, che ha definito Maometto in un modo che adesso non te lo dico, perché altrimenti tu mi dici: no, basta, tu ci credi a questa cosa? No, ma te lo posso dire, perché l'ha scritto un giornalista marocchino. Ha detto che Maometto aveva il cervello in quel posto, ok? Il cervello nelle parti intime. Ovviamente questo signore marocchino è stato massacrato, ho capito, però non è che alcune cose non si dicono anche nei paesi islamici, capito? Ed era lì che cercava di tradurre per me, un islamico cercava di tradurre per me questa cosa. Non è che si è sentito offeso da questa cosa, perché le persone laiche non è che si sentono offese da questa roba qui. Le persone laiche, ma anche le persone religiose, che però hanno un minimo di flessibilità, non è che si sentono offese. Comunque, dai, ragazzi, ci sono alcuni... Quello che ha detto quel sindaco lì è offensivo, questo senza ombra di alcun dubbio. Allora, cioè, vabbè, Hisham, sentiamo Hisham dalla provincia di Treviso. Dai, Hisham, sì, provincia Treviso. Sì, buonasera. Dimmi. Luciane, volevo dire la mia sulla persona che si è intervenuto ultimo. Sì, Gio Formaggio, su Gio Formaggio, sì. Sì, ma com'è possibile che Luciane tu permetti a persone insultare? No, però questo ragazzi, però su questa roba qui, Hisham, ma non è che io ho detto che lì la mia religione è il cazzo. Sempre, scusami. Io ti ascolto sempre con piacere. Scusa. Però tu lasci solamente insultare i musulmani, cazzo. No, ma sei tu qua? Almeno... Se ci sei tu qua che parli adesso, Luca, non è che puoi dire questa cosa qua. Lasci solamente insultare i musulmani. Stai parlando? No, tu dai sempre possibilità agli altri, non musulmani, soprattutto a insultare noi. Ma scusa, ma sei qui? Insultare la nostra religione, ma com'è possibile questo? Senti, caro Hisham, sei qua, stai parlando, hai preso la linea. Sì, io non insulto mai nessuno. E vabbè, non insulti, quello insulta. Scusami, se quello insulta e poi si assume le responsabilità di quello che dice, cosa cazzo vuoi da me? Scusami. No, ma come ci permette a lasciare gli altri insultare? Ma io lascio, ma questa qua è una trasmissione in cui, per fortuna, rispetto alle altre. Non ho mai sentito che qualcuno ha insultato la religione ebraica o la religione. Ma come? No, ma allora, scusa Davide, però su questa cosa qui. Ma non è che quello sia bello, infatti, comunque, alle volte, ma quando si supera un limite dico la stessa cosa. Ma io non ti sto criticando. Cioè, ormai cos'è che possono fare di più? Io non ti sto criticando, maestro, lascia perdere. Io sono d'accordo con lui, andava chiuso prima quello là. Perché non può delirare per 10 minuti. no, continuando no, a dire è cazzate. Durato due minuti l'Islam, dai, su, non esagerare. È andato oltre il limite. Sì, in due minuti, in quei due minuti là, perché prima ha detto delle cose delirianti lo stesso, ma comunque ci discutevi sulla pista da sci, fino a 30 secondi prima. Ma ti credo, ma che c'è della pista da sci quando ha cominciato a dire giudizi sulla religione, parolacce contro la religione, quell'altro, ma che roba è? Negli at, Lodi, sentiamo negli at. Dai, aspetta, no, c'è ancora Isha. Misha, ma che allora? Che mi dici? Se è una critica va bene, ma non insultare. No, ma tu puoi criticare, sì, ma non insultare, anche io dico, ma io non dico mai, non voglio criticare nessuno. Oh. Però uno insulta me. Vabbè, ma prenditela con lui, portalo in tribunale, ma non mi rompere i coglioni. Conduci il programma. Che vuoi? Allora, ma che non lo conosci? Ma perché non lo conosci? Non lo conosci questo programma? Non lo conosci? Ci chiedo una domanda, Cruciani. Te, sei molto intelligente, sei anche laico, no? Non è questione no? di intelligenza, non c'entra. No, mi pare che tu sei intelligente. Ascolta, mi pare tu sei intelligente. Vabbè, dimmi. Allora? No, se qualcuno intervenisse e dice inizia a insultare gli ebraici, inizia a insultare i cristiani, tu lo lasci parlare? Tu lo lasci parlare, che vuol dire? Ma se io lascio, io fosse per me farei parlare tutti tranquillamente, ovviamente dopo un po' intervengo. Non credo, ma come credo, no, mille volte sono intervenuto. Quale persona perché che sa? Ma sono io il primo, sono tutti diversi, non sono musulmani. Isha, perché hanno paura di parlare. Io comunque ho detto la mia, comunque se io un libero, possono anche insultare, non me ne frega. Sinceramente io penso, io sono sicuro di me, so cosa voglio. Mi dispiace chi sente queste parole. Va bene. Ciao Isham, ciao Isham, ti abbraccio, ciao. Non piangere, ciao. Non è il caso, ciao. Lorenzo, mi raccomando, chiama prima di arrivare a casa, chiama traffico. La Zanzara. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompino al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cagate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al toppissimo. Beppe, ma la vogliamo levare la bamba a Parenzo o no? Oh, a proposito di cocaina, no, non era citato di cui prima. Non faccio uso. Assolutamente, nemmeno io mai fatto uso. Ma non perché penso che brutti cocainomani di merda, eccetera, eccetera. Semplicemente, secondo me fa malissimo e non ho mai fatto uso di cocaina nemmeno mezza volta. Soprattutto perché ho paura. Neanch'io, mai. Avendo grande paura delle dipendenze, purtroppo. E penso che sarei, come dire, no? Sarei avvolto nella rete. Ma possiamo dimenticare quello che ha detto ieri? L'abbiamo un po' sottovalutato, forse. Gasparrone, ieri da noi, vicepresidente del Senato, che ha detto: io ho un sospetto che molti dei miei colleghi senatori siano cocainomani. Cioè, che circoli cocaina. Negli at, Lodi. Buonasera. Dimmi. Cruciani, mi profondi rispetti per Parenzo, sì. Ma Cruciani, fammi capire una cosa, perché state toccando sempre cose che non si devono mai toccare? No, qui tutto si può toccare, amico mio, no? Sbagli, no. Ascolta, tutto si può toccare. Tu Cruciani, sei islamico? Tu essere islamico? Sono musulmano dall'ex Jugoslavia, dalla Macedonia. Sono. Bene, allora? Sì. Mi rispetti per Parenzo, veramente sta facendo guerra come un leone. Volevo dire solo una cosa, sì. Se io offendo cattolico o un ortodosso giù in mio paese, sai cosa fanno? Arrivano la polizia, mi porta dentro subito. Se tu fai cosa? Non se offendo qualche cattolico, figuriamoci se ti mandano in galera, dai, su, non dire sì, no, vi giuro. Ma dipende guarda, quello che dici, dai, per su. Per favore, cioè. Ma perché state andando oltre i limiti? Ma io non sto andando contro nessuno. No, io, vabbè, state inventando inventando le cose che non è assolutamente vero. Io non sto inventando niente, te la devi pigliare con qualcun altro. Io qua, no, se qualcuno vuole dire delle cose, gliele faccio dire, sempre. Poi uno può essere lì, criticato, interrotto, come ha fatto Parenzo, ma mandato via. Cruciani, non voglio scendere sui livelli perché per me lui è una batteria, un microbo. Ma proprio. Chi? Quello poco fa da Betone che ha parlato. Cioè, come cavolo si permette offendere 1 miliardo e 300 milioni persone? E che cosa vuoi che ti dica? Negliate, sembri finto, come musulmano bosniaco. No, però vabbè. Ma no, perché sono 26 anni in Italia, ho imparato una cosa in Occidente che è culturale avanzato. Offendere è solo offendere. Complimenti, veramente. Ma cosa c'è? Ma complimenti lei, a chi? Non ho capito che cosa c'entro io. Spiegami, Negliato. Perché lasci offendere. Anziché chiuderlo. Io veramente stasera non voglio combattere su. Io non chiudo nessuno. Questo è chiaro. Sbaglierò, ma è così. Non chiudo nessuno. Io non sono d'accordo. Ma cosa devo rifiutare? Io non rifiuto niente. 100 milioni di persone. Non è giusto, Cruciani. Allora, ma fosse anche una. 200 milioni, ma forse anche una insultata in quel modo. Scusatemi, ragazzi. Allora, uno a tutto. Parenzo. Sì, va bene. Complimenti da Neyat. Ma non è complimenti, è una cosa banale. Mi dispiace che sia così poco convinta, ragazzi, questa roba, perché è talmente banale quello che non dico. Non è banale, non è banale. Purtroppo, ma ormai è passata questa cosa. No, non è passato mi dispiace, niente. Non è che cosa è passata? Dovrebbe essere una civiltà minima. Scusami, minima. Ma qualcuno. No, lo so, lei lo dice. Ma qualcuno, scusa, dovrebbe essere una civiltà condivisa. Aspetta, che dopo un certo punto uno non può andare, però, oltre un certo limite. Scusami David, io non si può permettere, grande. Io se fossi nelle mie trasmissioni televisive dove ma ho fatto di tutto, ma cosa se c'entra? Uno avesse ma sono, detto le cose che ha diverse. Detto quello, gli avrei detto lei ma prenda la porta e se ne sono va, cose diverse. Perché va bene tutto, va bene criticare, sono ma non cose si può diverse. Insultare sono cose, sono cose, a parte che sono, come sai, situazioni diverse e cose diverse. E si chiude, dice arrivederci, chiudo. Aspetta, c'è una seconda cosa che ti scordi, che come sai e come una volta condividevi, forse adesso non più, non so perché come una volta condividevi, è sempre dipende meglio, fino aspetta, a che punto è sempre meglio tirare fuori dalle persone ma tutto quello che ma hanno quella dentro. È un'offesa pura, ma che tirare fuori, ma che scusa, vuol dire, ma anche quando ma tu dai del razzista a qualcuno uno potrebbe sentirsi offeso e non lo è, che cazzo vuol dire, ma che quando tu scherzando? Dai del razzista a qualcuno, ma come non è la stessa, ma che discussione è, ragazzi, ma che stiamo scherzando? Ma che stiamo scherzando davvero? Ma quando tu dai del razzista a qualcuno o dai dell'imbecille a qualcuno, secondo ma me che anche stiamo scherzando? Anche giustamente in alcuni momenti. Ma un conto, magari chi mi insulta personalmente mi dice una cosa e si discute e posso dire una parola di troppo. Ma un conto è un politico che ha o un ascoltatore che prende di mira una religione e comincia a dire delle offese vigliacche, volgari e gratuite. Ha detto e gravi, delle frasi delle frasi pesanti di cui si assume la responsabilità. Ma non è che io dico vai a fare in culo, vattene fuori perché dice queste detto, cose. Certo. Vabbè, tu se ne vada. Sei più sensibile su questa cosa. No, io è meno. Sensibile. Ma è una cosa. Ma non c'entra niente, dai, su. Non mi c'entra. Sembra di dire buon senso dice, comune. Anche ma quando uno dice sono nazista, allora dovresti andartene. Scusami, e non lo fai, e giustamente combatti e lo affronti. Scusami, che differenza c'è? Dai, non c'è nessuna differenza. Neyat, fermo lì un attimo. Che Luigi da Catania, Luigi. Oh, Cruciani, ciao. Cruciani. Dimmi, Luigi, dimmi. Come stai? Sì, sto bene. Perfetto. Allora, intanto comincio a dire che io sono razzista, ma non a Custì, razzista fino al midollo. Ma con razzista, chi? Questi bastardi dei leghisti. Tu sei razzista con i leghisti? Assolutamente sì, io ci scippassi i testi, tutto pare. Cominciare allora, la traduzione è questa, gli scippassi. No, amico mio, fammi. Io a sedesti in gli strapperesti la testa. E perché? Tu parla in siciliano, tu io traduco, vai. Precisamente catanese, no, siciliano. Vabbè, quello che è. Su testa di minchia di goffi, come si chiama questo qua, Salvini? La testa di minchia di Salvini, sì. Ma è un ignorante, lui è il leader perfetto per questa Lega, è perfetto, su formaggino chiamavo prima su Facebook. Formaggio, sì, questo formaggio. Formaggio, sì. Che parla che noi, che le razze negre sono inferiori. Ma questo, io sono razzista, ma stiamo scherzando, cioè i negri sono inferiori, i negri, io si chiamo negri perché sono di colore negro, io mi ricordo Lenny, un film tanti anni fa, che diceva che sono negri, che qual è il problema? Non è che sono negri perché sono colore scuro, ma io li amo, come amo tutti i popoli, dagli eschimesi fino a non so ciunne, escluso questo fino a, popolo. Fino a? Fino a? Non so, oh, non so ciunne, sì, ma non so dove. Ah, non sa ciunne, non sa ciunne. Non so dove. Fino a non so dove, sì. Escluso questo piccolo territorio di merda dei Lega Padana, che sono caprari, ignoranti. Allora, questi qua, questi quando c'era il signor Bossi, sì, cominciarono con i meridionali, i siciliani, i meridionali. E adesso dici s'attacco, adesso coi negri. Ora, no, prima o poi passano che zingheri con gli zingheri, con questi qua. Di Roma, visto qua, ora ce l'hanno con questi poveri cristi che partono. Allora, è vero che non tutti sono persone che fuggono da guerre, però io dico una cosa, ma se uno invece rifugia da una guerra fugge dalla fame che perché non può dar da mangiare e ci muoiono i figli, che cazzo cambia? Perché non devono essere accolti in Europa? Non tanto io, guarda, Parenzo, questo la pensa come te, eh? Allora, infatti, io dico, no, ma Parenzo, io poco fa ho sentito sclerare. Ti piace Parenzo, godi o no? Allora, Parenzo c'ha solo un difetto, a mio modo di vedere, poi posso dire, che lui molto spesso le cose le nega. Se tu dici, ma Parenzo, tu ti sei mai masturbato? Io? No, mai. Quando invece che ci vuole? Sei masturbato? No, io ho detto normale. Solo che non parlo alla radio di queste cose qui. Però se lei, me lo, se lei viene a bere una birra a casa mia, se lei viene a bere una birra a casa mia, può essere anche che ne parliamo. Concordo. Concordo. Se concordate, ma che cazzo volete da me se concordate? Cioè, concordo. Era solo un punto. Era solo ma tu un che punto, mestiere che fai, poi... Luigi? Io faccio l'imprenditore. L'imprenditore. Vabbè, aspetta un attimo. Fermo lì. Cruciani, avessi io la fortuna di avere le prostitute sotto casa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Allora, caro Davide, siamo arrivati a venerdì, sono le 20:37, siamo tutti un meno po'... Meno male. No, vabbè, ma tranquillo. Meno male. Dai, stai tranquillo. Meno male in generale, perché comunque il weekend, meno male, la famiglia, le cose, eccetera. Però che succede? Succede che abbiamo citato il professore mille volte, Sgarbone, no? Io proverei anche a fargli una telefonatina, proprio in... come conclusione naturale della settimana, no? Come conclusione naturale, perché c'è la questione... E ovviamente di che cosa? Di Gorino, naturalmente, di Gorino. Lui ha preso una posizione molto netta a favore degli abitanti, a favore, scusa, degli immigrati. E poi altre due o tre cosette, le solite cosette sessuali di Sgarbi, Pronto? Vittorio? Sì. Oh, finalmente ti becco. Ah, eccomi qua. Come andiamo? Ah, bene, bene. È la settimana di Gorino. Alla fine gli abitanti hanno vinto. Hanno mandato via questi 12 immigrati. Tra l'altro. Donne. Ma donne. Non c'erano bambini, Parenzo? Non c'erano bambini, una bufala donne, tremenda. Non c'erano donne, bambini. Donne di cui una è incinta. Sgarbi ha preso una posizione netta contro Gorino. Addirittura una certo, un posto razzista. Non so che hai detto. Bravissimo, ha ragione, perfettamente ragione. Quelle sono delle piccole comunità di una cultura molto locale, come sarebbe quando studi antropologia una lingua africana. Sì. Se tu vai a chiedere a loro di accogliere lo straniero, hanno torto a non accoglierlo, ma hanno una motivazione psicologica di piccola comunità che si chiude in se stessa e si dipende dalla violenza della natura, del terremoto. E allora il prefetto è un coglione, scusami. Il prefetto perché, esattamente, sai perché? Perché lì vicino, a pochi chilometri, c'è il Lido delle Nazioni, un luogo completamente inutile che per 9 mesi all'anno è vuoto di case, di gente ricca, seconde, terze case, gli alberghi inutili, li metti lì. Cioè, secondo te si possono requisire le seconde e terze certamente, case? Certamente, ma requisire. Il Lido di Spina, il Lido delle Nazioni sono luoghi artificiali, non di tradizione di pesca. C'è Albarella, che è della Marcegaglia, che è una quantità enorme di case e casette vuote 8-9 mesi all'anno. L'isola allora, di Albarella, puoi chiamare certo. La Marcegaglia e dire, mi può ospitare 12 persone, diventa un bocest anche utile per comunicare Albarella, certo. Che è un'altra città artificiale. Questa ma come fai a dire? come fai a dire noi siamo ricchi e possiamo ospitare le persone? Allora, secondo questo criterio potremmo ospitare 50.000 persone. Ma no, ma sono le seconde case d'Italia. Ma che c'entra, dai, Vittorio, non c'entra niente. Ma sì, saremo anche ricchi, è vero, ma sicuramente c'è un sacco di gente ricca, ma non è che sono 20 persone, cioè tu hai problema. Ho capito, ma se sono 20 oggi, sono 20 anche domani, cioè non si finisce più. E la Costituzione, che io leggo sempre, ha un articolo 10 che dice: lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Ma sono pochi i profughi, sono pochi no, i profughi che arrivano, quelli che. Ma non c'è nessuna differenza, anche il clandestino è un profugo, perché se tu mi ascolti, capisci che quello non ha i diritti, non ha il diritto al lavoro. Ma ho capito, ha il diritto al lavoro, ma che vuole? Allora dobbiamo accogliere tutti. Chiunque. Ma a cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite. Mi sembri vendola. Porca puttana, ascolta. Mi sembri vendola. Sei come vendola. Ti leggo il 48. È un testo del 48. E va bene, ma sei vendola quando citi queste cose. Allora, la Costituzione. Che lascia finire. Chiave. E vabbè. Che dice: diritti. Libertà democratiche. Diritti. Garantite dalla Costituzione italiana. Diritto d'asilo. Se non hai i diritti che abbiamo noi, hai il diritto d'asilo, è chiarissimo. E vendola, allora, sei diventato come vendola. Accogliamo tutti. Basta che hai un diritto in Libia. Ma che quanta gente accoglie i cani e i gatti con la tua amica Brambilla? Quanti stranieri possono stare in Italia dove c'è decrescita delle nascite e una quantità di case vuote? Mettiamo 300.000, 500.000, ti fermi lì. Un malato di assenza di democrazia è come un malato, ha bisogno di essere curato. Con questo criterio praticamente dobbiamo accogliere tutti, va bene, per carità, ma tutti quelli che vengono dall'Africa, perché non c'è nessun paese stabile, tutti quelli che vengono anche in parte dal Sud America, molti paesi dell'Asia, non finiamo più. Il problema di 27 paesi europei. Ho capito. Uno, 27 paesi europei. E tu dici che la Merkel è una stronza, sì, certo, non c'è dubbio. No, ma non sto dicendo che... Senti, a proposito, ma perché non li mettiamo un po' ad Fuxas dentro la nuvola? Non c'è dubbio, lì possono andare benissimo, ci stanno 8.000 persone solo nella sala delle conferenze. Il clandestino è comunque un profugo, perché fugge da un paese che non gli dà nessuna possibilità di sopravvivere. Bene, so che tiro del culo, ma ti dico vendola. Ti dico vendola. Mi fa piacere ogni tanto essere come vendola. Prenderlo in culo ogni tanto non è male. Insomma. Sì, prenderlo del culo. Lui lo prende poco nel culo, insomma, lo mette più nel culo ad altri. Senti, gli impacchi di figa è meraviglioso, però. Gli impacchi di figa. Quello ci vuole, perché non posso solo fare il vendola, devo anche fare il garbo. È tutta la vita che li faccio. Scusa, fino al caso li ha fatti tutti i giorni, due volte al giorno, per 35.000 donne. Sta benissimo, ha più di 90 anni. Ogni tanto a Sabrina un colpettino bisogna darlo, no? No, tu dici che è meglio no. No, è un rapporto di natura spirituale, quindi non presuppone parte fisica. Quando ti avvicini, perché tu ogni tanto ti avvicini. Beh, una volta che lei venne a trovare il assessore a Milano, io con un moto automatico buttai la mano verso la persona che dormiva con me. Sì. Non ricordavo che fosse lei, mi ha detto: scusa, ma hai scambiato per una delle tue puttane? Però mi rispinse con questa formula, perché io avevo spaesato la sua presenza. Quindi, da questo punto di vista, io sono un uomo respinto. Cioè, è lei che lo allontana. Sono un clandestino e chiedo ospitalità in paesi liberi. E da quant'è che non trombate? Avete 18? Quant'è? 17, capito? Da 17. Dal secolo scorso. Vedi perché sono così preso da questa vicenda dei migranti? Perché anch'io sono un migrante della figa. Sono anch'io un migrante della figa, non è male. Va bene, ciao Vittorio. Ero sicuro. Ciao Vittorio. Mi raccomando, seguite i miei insegnamenti. Impacchi e siate migranti. E sperate nell'accoglienza. Ciao. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. Allora, c'è sempre Luigi da Catania, mi sembra, Luigi da Catania, sì, Luigione, sì, vai, Luigione, vai. Sto addormiscendo, comunque, scusate. Allora, se ti addormenti con Sgarbi, amico mio, sei... No, guarda, ma addormiscio. Allora, praticamente, c'è sta cosa degli emigranti, anche tu dici, no, li accogliamo tutti, non, c'è una cosa... Capite io... In questo momento, mentre stiamo parlando, sì, sono arrivate altre 300 persone. Ma scusa, mentre l'imprenditore di cosa sei tu? L'imprenditore di che? Io praticamente vendo scimitare per scippare i testi leghisti, chi sta capendo? Poi le affilate, quindi queste cose. Ma dai, dimmi seriamente, cioè, scimitare di che cosa? No, non sono scimitarre, se è commercio, così è commercio. Commercio di che? Di coltelli, di spade? No, di ma guarda. Diciamo, Mi occupo di confezione, di confezionamento di vari oggetti, la confezione di vari oggetti. Ci sono persone che fanno dei mestieri misteriosi. No. Mi occupo di confezionamento. Ma che cazzo vuol dire? Sì. Mi occupo di confezionamento. Devi dire esplicitamente: sono rappresentante di una ditta che vende scatole. Io sono il titolare. Titolare di una ditta che vende che? Scatole? Che fai? Che costruisci? Scatole di tutti i tipi. Confezionamento. Ci saranno sotto delle truffe spaventose. Ma dove? No, nel tuo settore, nelle truffe spaventose. Ma qua, vabbè, lasciamo stare sta cosa, non c'entra un cazzo con le aspetta truffe. Luigi, aspetta un attimo, aspetta un secondo. Sì. Ciao a tutti, sono Vittorio e ho il segreto della giovinezza. Per mantenermi giovane e bello quale sono, io faccio gli impacchi di figa. E voi non fate i coglioni, ma fate gli impacchi di figa. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non somministrare alle capre ignoranti. Capito, Luigi? Sì, l'ho capito. Tu lo segui questo consiglio di Sgarbone? Allora, vabbè, se stai sentendo, mi futta la figa. Se ne cosa stavo dicendo. Cioè, non te ne frega, la traduzione non me ne frega niente della figa. Ogni tanto penso qualcuno diverso ci vuole. Non gli interessa forse dirlo qua. Giovanni, Luciano, mi conosco sempre con Luciano. Allora, Luciano. Io, quella che tu chiami la figa, mi è piaciuto sempre, da quando avevo 4 anni. Però? Mi è piaciuto. Però ti dico una cosa, che non escludo nulla nella vita, perché... Questo è buono, eh? Dentro cioè, di in noi, che senso? Spiegami, in che senso? Nel senso che io, per esempio, ho una parte interiore che è più femminile per quanto mi riguarda, nel senso di una sensibilità particolare. Cioè sei un po' puppo. Allora, ti dico una cosa, dal punto di vista psicologico potrei anche essere quel 10-20%, ma se lo fossi al 100% sarei anche felice. Ma che cazzo me ne fotta a me se uno è puppo o non è puppo? Puppo significa proprio, parecchio. Sì, chiaro. Ma qual è il problema? Com'è in catanese? Ma a me lo dici qual è il problema? Com'è in catanese frocio, gay, eccetera? Come si dice? Allora, si dice, a secondo te lo voglio offendere? Male, puppo, allora, si dice puppo. Chi è puppo? Chi è puppo, per dire, no? Sì, per dire, per anche, dire. Si dice anche Iarrusso, per dire, Iarrusso. Iarrusso però è un insulto, un po' Iarrusso, no? Sì, ma anche puppo, per dire, cioè, qua in meridione quando diciamo la verità, dall'altra parte è già offensivo, già di suo, ma è sbagliatissimo, comunque ancora siamo ricchiunazzo, pure ricchiunazzo, pure si dice ricchiunazzo. No, ricchiunazzo, no, la parola ricchione non la usiamo noi, Catania. Però scusami Luigi, la verità è molto semplice, col passare degli anni, adesso non so quanti anni hai tu, in realtà comincia a piacerti un po' il pisello, diciamola tutta, diciamo fino in fondo la verità, proprio nuda e cruda, mi sembra di capire che col passare degli anni, da quello che mi stai raccontando, da quello che stai spiattellando qui della tua vita anche intima, privata, eccetera, oltre all'odio nei confronti della Lega, mi sembra che ti stia piacendo, ma... No? Vedi tu qual è il problema. Tu vuoi fare anche lo psicologo, ma hai sbagliato completamente, non capisci un cazzo. Io ho detto dal punto di vista psicologico, appunto, dentro di me, io per esempio posso avere anche, ma non fisico, una cosa è fisica, alla senta amico, a me piace Upacchio, punto e basta, detto che è la questo, figa Upacchio, scusami. Ma che cazzo, tu io ti ho visto, mentre tu parli, metti a fare i chat, cose, con specchio telefonino, perciò segui, non segui, ascolti, chi ti parla lì, che dici un'altra cosa, perciò non capisci, se tu fossi attento, la presti, che non ma è sono attentissimo, guarda, detto sono questo, ascolta, scusami, detto questo, andando solo da Parenzo, e mi dispiace quello successo, continuo a fare così, Parenzo, guarda, ti dico una cosa, se fossi in Italia tutti bastardi, stronzi, razzisti, ce n'è uno, io non sono così e mi ma piace, insomma sono tanti, quando l'amico qua Minghiadello dice però non tutti in Italia perché la maggioranza dice ma a me che spacchio me ne fotte della la maggioranza ha fatto salire Hitler, la maggioranza ha fatto salire Mussolini, che spacchio è la maggioranza se mai spacchio, in certa direzione per dire agora un edo con suo paese agora vendi merdosi che sono merdosi. No, adesso stai cominciando a insultare quelli di Goro, gli abitanti di Gorino. Aspetta, gli abitanti di Gorino la devono prendere il culino tutti, maschi e femmine, perché sono stronzi. Poi dopo che hanno cacciato quelle povere donne che piangevano... Stai insultando, sei razzista al contrario, tu da Catania stai insultando... Ma io sono razzista con i leghisti, lo sono, non quelli erano abitanti normali, gente normale di Gorino, vergognati! Quindi, ti devi vergognare per quello che hai detto! E quindi? Ti devi vergognare! pagare per quello, ma che perché, hai detto? Questi abitanti di Gorino, quel culino, vergognati, vergognati, vergognati, non fare come amico, vergognati, vergognati, vergognati, vergognati, no, vergognati, e ogni tanto lo fa anche Parenzo, ma lì una volta sola, il suo sono tutto rosso, ti devi vergognare, ti devi vergognare perché hai insultato gli abitanti di Gorino, se ti devi vergognare. Scusami, gli abitanti di Gorino sono, aspetta, quelli che ti faccio sentire, Antonio, hanno cacciato chi? Hanno cacciato 20 persone perché non le vogliono. Sono stronzi! E vaffanculo, sono stronzi! 20 donne hanno cacciato! Donne e bambini! Luigi, ma stai scherzando? Luigi, sei veramente una testa... Ma ti devo vergognare! Sei veramente una testa di cazzo! Te lo posso dire che sei una testa di cazzo? Ma dimmi meglio quello che vuoi, siamo in democrazia, figurati! Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio fortissimo! Ci sentiamo lunedì, Luigi, ti richiamo lunedì, ciao! Zanzarosi, andate a fare in culo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.